Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di un solo libro, un libro che si intitola Niente di più facile, niente di più difficile, manuale pratico, tra parentesi, per la comunicazione. Ne sono autori Gianni Di Giovanni e Stefano Lucchini, legati da un'unica competenza e responsabilità professionale, e il perché lo facciamo dire subito a Gianni Di Giovanni. Buonasera Di Giovanni. Buonasera agli ascoltatori e buonasera a te direttore. Allora, come mai questo connubio con Stefano Lucchini e che cosa fate nella vita? Intanto è bello dire che ci conosciamo da oltre 30 anni, siamo amici, abbiamo fatto un po' di università insieme e poi ci siamo ritrovati in questi ultimi anni all'ENI, dove entrambi lavoriamo. Stefano è il direttore delle relazioni istituzionali della comunicazione, mentre io mi occupo soltanto della comunicazione. È un connubio che poi abbiamo esteso anche al mondo accademico, perché entrambi teniamo un corso all'Università Cattolica cercando di formare giovani giornalisti e giovani comunicatori. Quindi un'esperienza di comunicazione, un libro sulla comunicazione, una comunicazione che in questa fase ha qualche problema in Italia. Diciamo di sì, l'esperienza per entrambi, oltre che ventennale nel mondo della comunicazione, ci porta ad osservare intanto come si è evoluta, come è cambiata la comunicazione, specialmente quella aziendale, specialmente quella di aziende quotate in borsa in questi anni in Italia. E poi non ci impedisce di dare un occhio anche a altri settori della comunicazione, quella politica, tanto per iniziare, e poi arrivare anche a quella culturale, a quella dello spettacolo, a quella di tanti altri mondi che abbiamo poi voluto portare nel nostro libro, chiedendo a un po' di amici di dare delle testimonianze dai loro punti di osservazione, che sono quelli di responsabilità, di strutture, di istituzioni o anche eventualmente di personaggi che lavorano nel mondo della società italiana. C'è una presentazione di Ferruccio De Bortoli in cui si mette in evidenza innanzitutto una cosa, che fare il giornalista e fare il comunicatore sono due realtà diverse. Gianni Di Giovanni, sei d'accordo? Perfettamente d'accordo, due realtà diverse, e spesso e volentieri è giusto che non abbiano grandi cambi di passaggio, che cambi di squadra, cambi di territorio. Perché, separazione delle carriere come con i magistrati? Più o meno sì, anche perché io lo dico sempre ai miei studenti, io dico sempre che fare il giornalista è un po' come fare il magistrato. Il magistrato ha l'obbligatorietà dell'azione penale, il giornalista ha l'obbligatorietà dell'azione informativa. Il pubblico del giornalista vuole sempre notizie, vuole sempre possibilmente vere, verificate e autorevoli, vuole informazioni puntuali, vuole approfondimento nelle cose che si vanno scrivendo, raccontando, come nel caso della radio. Il comunicatore è l'interfaccia in alcuni casi, è però ovviamente l'interlocutore spesso e volentieri non sempre in linea col giornalista dall'altra parte. Bisogna mantenere separate le due funzioni, cercando di fare esperienza, specialmente all'estero, scriviamo noi nel libro, per essere sempre aggiornati, per essere sempre puntuali nelle cose che si scrivono. E poi c'è ovviamente il grande mondo di internet, che noi tocchiamo nelle pagine del libro verso, diciamo, la parte finale, prima dell'esperienza che tu hai appena citato, proprio perché vogliamo che insomma l'evoluzione della nostra professione, quella dei comunicatori, finisca giustamente anche nei byte e migliaia di miliardi che ogni giorno transitano intorno a noi. Un universo che si sta estendendo, in cui è certamente difficile anche avere una visione che possa essere efficace ed effettiva in questo universo di internet che si espande quasi senza nessun controllo. Ma io volevo tornare un attimo alla presentazione di Ferruccio De Bortoli, perché vi fa in questa presentazione un grande complimento, e appunto parlando di Gianni De Giovanni e di Stefano Lucchini, dice che che non sono mai venuti meno a una regola aurea che a noi giornalisti non di rado manca, l'umiltà. E l'umiltà è la veste migliore della competenza, un pregio non da poco, questo scrive De Bortoli. L'umiltà si accompagna al rispetto dell'altro, delle sue ragioni e delle sue scomode posizioni. Quindi un'umiltà che fa sì che il vostro mestiere di comunicatore sia un mestiere di servizio a un'informazione il più possibile completa, il più possibile libera, anche al di là e al di sopra, certamente non contro le esigenze di chi questa comunicazione deve fare, ma un po' al di sopra degli interessi specifici. Gianni Di Giovanni. Sottoscrivo al 100% questa tua chiosa rispetto alle parole di Ferruccio De Bortoli, che sono state veramente generose e dal nostro punto di vista di ulteriore responsabilità per gli incarichi che ancora dobbiamo gestire. È così, l'umiltà, l'essere di servizio è la chiave di volta anche per il successo nel nostro lavoro, anche perché parliamoci chiaro, e qui voglio parafrasare il sottotitolo del libro che è Manuale pratico per la comunicazione. Il nostro goal, il nostro obiettivo è quello di far realizzare un servizio in radio, fare un articolo come si deve, e questo lo fanno i giornalisti. Se si è servizio vero per i giornalisti e non ci si impalca a grandi soloni della comunicazione, si arriva al risultato che poi noi vogliamo ottenere, che è giusto che le aziende per le quali lavoriamo possano poi leggere o assistere o ascoltare. Lo si fa spesso e volentieri questo nelle scuole, nelle università, lo si racconta nelle scuole, nelle università, non lo so. Certamente noi abbiamo voluto pervadere questo libro di questo senso di volontà di servizio perché i giovani comunicatori sappiano che cosa li deve aspettare nella loro carriera. Ecco, allora torniamo anche al titolo del libro, magari con qualche esperienza concreta. Niente di più facile, niente di più difficile. Qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato negli ultimi tempi? Guarda, non so se è quella maggiore, ma certamente è l'ultima, e tutti i tuoi ascoltatori se ne ricorderanno. Lo scorso mese siamo stati inondati dai cabli di WikiLeaks. Queste rivelazioni di questi documenti, di questa corrispondenza tra diplomatici statunitensi e la loro casa madre, in gran parte questi diplomatici lavoravano nell'ambasciata italiana, parlavano di Eni come una sorta di piccola spectre che di fatto era una sorta di ministero degli esteri italiano che in qualche modo assecondava desideri o richieste di altri personaggi che niente hanno a che vedere con l'azienda. Bene, questo è stato un momento di grande criticità dal punto di vista della nostra reputazione, anche perché la scelta che abbiamo fatto in azienda è stata quella di non rispondere puntualmente, come dire, sullo stesso terreno alle indiscrezioni, cioè non abbiamo voluto avvalorare l'indiscrezione. Vi ricordate che un grande uomo di comunicazione, oltre a un grande manager, un grande imprenditore italiano, Gianni Agnelli, diceva sempre che non bisogna mai replicare alle indiscrezioni perché di fatto le si avvalora due volte. Ecco, sì. Noi abbiamo seguito un po' questo indirizzo, abbiamo aspettato che la buriana si calmasse, nel frattempo abbiamo fatto un lavoro, vi assicuro, faticosissimo con tutti gli interlocutori dei media italiani ed internazionali, spiegando come stavano le cose, cercando di chiarire tutti gli aspetti che venivano rivelati in maniera aumentata, spesso e volentieri falsa e tendenziosa, sui media internazionali da WikiLeaks, e poi alla fine, quando ci siamo resi conto che i tanti argomenti erano tutti quanti caduti, abbiamo fatto chiarezza facendo parlare i nostri massimi vertici, ovvero il nostro presidente professor Roberto Poli e il dottor Paolo Scaroni, amministratore delegato, che hanno avuto agio di spiegare che alcuni concetti che venivano letti sulle pagine dei giornali, ripeto, non solo italiani ma anche internazionali, erano solo frutto di valutazioni del tutto personali e che soprattutto non erano ciò che gli Stati Uniti, l'amministrazione americana, pensavano dell'ENI e dell'Italia. Ecco, allora in 10 secondi per concludere, qual è stata la cosa più facile e la più grossa soddisfazione? La più grossa soddisfazione è stata quella di trasformare, di cambiare l'immagine di Eni su tutto il territorio nazionale cambiando le nostre stazioni di servizio da Agip, che tutti ricorderanno, in Eni, e avere un favore di tutto questo, cosa che non ci aspettavamo, da parte dei nostri consumatori, da parte quindi degli stakeholders più rilevanti per la nostra azienda, che hanno anche loro capito che stavamo puntando sul cane a sei zampe, che dall'inizio di Eni il logo e il biglietto, certo, da visita più importante che noi abbiamo, come elemento di link tra quello che era l'azienda sul territorio e quello che invece è l'azienda nel mondo. Grazie a Gianni De Giovanni. Il tempo purtroppo vola. Abbiamo parlato del libro che Gianni De Giovanni ha scritto con Stefano Lucchini, Niente di più facile, niente di più difficile, manuale pratico per la comunicazione, edito da Fausto Luppetti, 170 pagine per 15 euro, tutto quello che volete sapere sui giornali, sui comunicatori e che non avete mai osato chiedere. Grazie ancora, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia, Anita Perizzi in redazione. L'appuntamento con i libri di economia è per sabato prossimo.